De cette journée. Évidemment, je remercie l'Université Paris-Sorbonne, le Faire d'études italiennes et le Master LLCE de l'Université Paris-Sorbonne, toujours. Je vous souhaite une très belle journée d'études, une journée fructueuse. J'espère qu'il y aura plein de choses intéressantes pour tout le monde. Et donc, voilà, je vous laisse, Frédéric. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, moi, j'en profite très vite aussi pour remercier absolument Fabien, qui est le directeur donc, de l'Institut culturel italien, de nous avoir donné la possibilité de faire cette journée dans ce lieu que je trouve absolument magique. J'espère que vous partagez ce sentiment et qui va nous porter. Remercier aussi, je dirais, ceux qui ont choisi d'inscrire Léonard au programme de l'agrégation, et qui donc nous ont fait le plaisir de rencontrer hein, pour certains ce personnage absolument extraordinaire et fascinant. Et puis bien sûr je vais remercier à l'avance tous les interlocuteurs. Vous verrez qu'ils sont disparates en ce sens que certains sont des spécialistes de Léonard et ont consacré sinon leur vie, peut-être des décennies d'études à Léonard. D'autres sont des opportunistes comme moi, que le concours de l'agrégation a permis, si vous voulez, encore une fois, de croiser Léonard. On aura bien sûr des historiens de l'art, des littéraires, des historiens tout court, et bien sûr ce miroir entre l'approche française et l'approche italienne qui est au cœur, je pense, de cet institut et de notre métier. Alors je n'en dis pas plus, vous verrez que nous avons été assez soit désinvoltes soit progressistes, je ne sais, mais nous avons complètement aboli tout ce qui était discours d'accueil, présidence de séance, en comptant de façon peut-être très naïve sur votre capacité à l'autodiscipline. Donc il est vrai que nous sommes nombreux, qu'il y a 10 interventions qui vont toutes être plus passionnantes l'une que l'autre. Et donc j'attire votre attention sur la nécessité d'essayer de respecter, hein, dans la mesure du possible, les 30 minutes qui nous sont imparties. Parce que c'est, et même si vous dépassez un petit peu, sachez que c'est le temps de discussion qui sera amoindri. Donc je vous demande d'être vigilant sans être non plus terrorisé par ces 30 minutes qui nous paraissent très courtes, je vous rassure à tous. Que dire de plus? Rien. J'ai demandé à Olivier de présenter, on va dire très brièvement et très essentiellement, les intervenants, hein, en sachant que nous aurons ton pour parler, hein, il y aura les espaces de discussion, il va y avoir une pause qui va se faire ici, et sachez, public, que nous sommes ravis que vous soyez là, et que toute question que vous pourrez nous poser nous fera le plus grand plaisir. Donc n'hésitez pas à intervenir et voir à nous corriger, si, car je crains que ce puisse être possible. Voilà. Donc, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous et merci. Donc nous laissons la parole à Monsieur Romain Descendre. Romain Descendre est professeur en études italiennes et histoire de la pensée politique à l'École normale supérieure de Lyon. À ce titre, il prépare ses étudiants à la question de l'agrégation consacrée à Léonard. Il est également membre de l'Institut de France. Ses recherches portent essentiellement sur l'histoire de la pensée politique et ses rapports avec les autres formes de savoir dans l'Italie du 15e au 17e. Je vous laisse la parole en espérant ne pas m'être trompé. Non, pas du tout, pas du tout. En particulier sur la préparation à l'agrégation. J'ai préparé tous les concours de l'agrégation, outre celles que j'avais eues il y a longtemps. De 2004 à maintenant, j'ai pas eu une année où j'ai pas fait une question d'agrégation, donc je commence à fatiguer. et c'est moi qui suis le coupable de la, non pas du choix du jury, mais qui suis le coupable de la proposition de mettre Léonard à l'agrégation. Et je vous prie de m'en excuser pour ceux qui souffrent terriblement sur Léonard depuis quelque temps maintenant. Bon, alors. Je vais essayer d'appliquer le principe d'autodiscipline. Je lance un minuteur à 30 minutes. Je ne suis pas du tout sûr d'y arriver. Mais... Bon. Voilà, alors du bon usage des sources, Léonard et Valturio. Le titre est un peu présomptueux, vous m'en excuserez, mais qu'on se rassure, il ne s'agit absolument pas de faire la leçon sur ce que serait de bon ou de mauvais usage de sources, mais de réfléchir à deux questions conjointes, à la fois l'usage que Léonard fait de ses sources, et l'usage que la critique fait de la question des sources de Léonard. Longtemps, le débat s'est concentré sur le problème de leur identification et de l'influence qu'elles ont eue sur sa pensée. Et c'est un problème si épineux qu'il tend parfois à laisser au second plan, ce qui semble pourtant être une question plus importante encore. Qu'en fait-il? Comment s'en sert-il? Et pourquoi faire? C'est cette question que je veux poser au sujet d'une œuvre qui fut l'une des principales sources de Léonard lorsque, dans la deuxième partie des années 1480, il décida de ne plus simplement être un artefice, mais tout autant un homme de lettres et de sciences, non plus seulement un praticien, mais un théoricien. Il s'agit donc du De re militari de Valturio, dont on trouve de très nombreuses traces dans les manuscrits les plus anciens de Léonard, ceux des années 1480, et en particulier dans le manuscrit B de l'Institut de France et dans le manuscrit Trivulziano. La tâche pour affronter cette question nous est grandement facilitée par l'un des plus grands spécialistes de Léonard au XXe siècle, Augusto Marinoni. Dans son livre classique, Gli appunti grammaticali e lessicali di Leonardo da Vinci, qui reste, je trouve, aujourd'hui encore un modèle indépassé de ce que la philologie léonardienne fait de mieux. Et dans ce livre, Valturio occupe une place centrale, décisive pour la démonstration. C'est un exemple parfait, me semble-t-il, de bon usage de sources. Valturio, ou plutôt Ramusio, Paolo Ramusio, l'éditeur et traducteur de Valturio, que lit Léonard. Alors, qu'est-ce que c'est que le De re militari? C'est le traité militaire le plus célèbre du XVe siècle, qui connaît une diffusion exceptionnelle, d'abord manuscrite. On a de magnifiques manuscrits dans à peu près toutes les bibliothèques d'Europe, et imprimé ensuite, à partir de 1472. Son auteur, donc Roberto Valturio, était un humaniste de Rimini, né en 1405, successivement lecteur de rhétorique et de poésie à l'université de Bologne, scripteur de la chancellerie pontificale, et enfin secrétaire du seigneur de Rimini, Sigismondo Pandolfo Malatesta. C'est pour Malatesta qu'il rédige son ouvrage à partir du milieu des années 1440. Il est composé de 12 livres, et ce n'est en aucun cas un traité d'ingénieur militaire. Il a pour ambition de donner à la matière politico-militaire le prestige des lettres classiques, en compilant et en organisant l'ensemble des connaissances qui, sur le sujet, ont été transmises par les anciens. Il n'accorde d'ailleurs aucun privilège aux auteurs spécialisés en la matière. Parmi plus de 120 auteurs cités, Végès ou Frontin n'ont pas plus d'importance que Cicéron, Lucrèce ou Tite Live. L'ensemble de l'ouvrage met en pratique ce qu'il affirme dès ses tout premiers chapitres, à savoir que la connaissance des lettres, de la rhétorique, de la poésie, de l'histoire sont indispensables au seigneur et au capitaine, et que cela fait pleinement partie de l'art militaire. C'est donc aussi un centon donnant accès à d'innombrables passages des lettres anciennes. Et c'est enfin, dans sa deuxième partie surtout, un manuel, tout à la fois philologique et technique, qui se penche de très près sur les armes, les véhicules et les machines, bref, sur l'ensemble de l'ingénierie militaire des anciens, mais pas seulement des anciens. Il y a là un travail associant la nomenclature, la description, et enfin et surtout le dessin. Il s'agit de l'un des grands livres illustrés du XVe siècle. Alors, on a là, il s'agit de la planche, de l'image la plus célèbre de l'édition de 1472, puisque le très grand succès de la diffusion manuscrite du livre est relayé Donc à Vérone, sous les presses de Giovanni di Nicola, en 1472, par une première édition imprimée, qui comprend une petite centaine de xylographies. Une dizaine d'années plus tard, en 1483, le traité est réédité à Vérone toujours, cette fois chez Bonino Bonini, en deux exemplaires, l'un en langue originale, hein, en latin, c'est celui-ci, et l'autre en langue vulgaire. Voilà, ça c'est la première page. Donc c'est un autre homme de lettres, Paolo Ramuzio, au service de la République vénitienne, lui aussi de Rimini, qui en est donc l'éditeur scientifique et le traducteur. Donc c'est l'auteur, d'une certaine manière, du Volgarizzamento, hein, intitulé « Opera e fatti e precetti militari ». Alors, toutes les raisons sont réunies pour que cette double édition latine et vulgaire fasse l'objet d'une attention soutenue par Léonard. D'abord, en raison de son objet premier, l'art et l'ingénierie militaire, qui sont, ne l'oublions pas, de très loin, les principaux, les premiers motifs mis en valeur par son offre de service à Ludovic le Mort dans une lettre très célèbre, contemporaine, ou de peu postérieure à la double édition Valturio Ramuzio. Il importe de souligner que ce livre est considéré par les historiens comme le premier et l'unique incunable traitant et illustrant une matière technique. Autre raison, ces illustrations, donc, au-delà du seul cas de Léonard, c'est d'ailleurs une des raisons sans doute du très grand succès du livre. Sa double dimension, donc doctrinale, littéraire et savante d'une part, mais aussi technique et visuelle d'autre part, font que cette œuvre est incontournable, hein, pour Léonard. Voici quelques planches de l'édition, donc Ramuzio me latine, hein, ici. Il y a tout lieu de supposer, comme l'ont fait plusieurs spécialistes depuis Calvi et Marinoni, hein, donc depuis longtemps, que Léonard s'intéresse d'autant plus à ce livre, qu'il, dans cette période cette période milanaise, hein, du milieu et de la deuxième partie des années 80, il aurait un projet de traité d'ingénierie militaire. Pour certains, il aurait même l'ambition de remplacer directement, hein, d'actualiser et de remplacer le De Re Militari de Valturio, et de faire donc pour Ludovic le Mort ce que Valturio a fait pour Sigismondo Pandolfo Malatesta. Une autre raison décisive qui conduit Léonard non seulement à lire et à méditer, mais plus encore à puiser si intensément dans cette mine d'informations qu'est Valturio, c'est donc le Volgarizzamento de Ramuzio. C'est ça, évidemment, qui lui donne un accès direct et complet au texte. Et le fait qu'il dispose d'un traité, qui est à la fois un traité, un véritable traité humaniste et en langue vulgaire, des traités humanistes en langue vulgaire au XVe siècle, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a très très très peu. Et là, on a un exemple assez extraordinaire, et en même temps traitant d'une matière technique qui l'intéresse au plus haut point. Le texte lui donne accès à un nombre extraordinaire d'autoritates, ces alturitas, hein, dont il dit qu'il n'a que faire, mais qu'il va cueillir avec plaisir, semble-t-il, dans ce livre. Et on va voir aussi que c'est un texte avec lequel il peut essayer de rivaliser en reprenant un certain nombre d'éléments. Et notamment, et c'est la dernière raison, et c'est la raison qui intéressait principalement Marinoni, d'un point de vue lexical et linguistique, là, dans ce cas-là, il s'agit bien plus que d'une inspiration, il s'agit d'un apprentissage, de cet apprentissage de l'autodidacte des lettres qu'est Léonard, comme l'a montré Marinoni, donc sur le livre duquel je vais revenir maintenant. C'est une intervention qui va être autant sur Marinoni peut-être que sur Valturio et Leona. Je m'en excuserai, mais je crois que c'est vraiment un livre important de ce point de vue-là. Alors, un livre qui a maintenant 74 ans, hein, date de 1944, et qui a permis de résoudre définitivement l'une des grandes énigmes qui avait agité les spécialistes depuis la découverte des principaux manuscrits léonardiens au XIXe siècle, à savoir la question de la logique et de la signification des très longues listes de mots présentes dans les premiers manuscrits de la période milanaise, et tout particulièrement dans le Trivulziano, qui date des années à peu près 87-90. Donc on a pas moins de 54 pages de listes de vocables d'italien sans ordre apparent. Je ne sais pas si on voit bien là, non, c'est très flou, excusez-moi, mais la reproduction n'est pas bonne. Mais on voit à quoi ça ressemble. Hein. En tout, plus de 8000 mots dans le manuscrit Trivulziano. Alors, la thèse la plus en vogue pour expliquer ces listes, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, hein, à une époque donc, qui était celle de la récente unité de l'Italie et où la question de la lingua avait gardait une acuité encore particulière, c'était donc la thèse de Gilberto Govi, devenue ensuite celle de Luigi Morandi un peu plus tard, donc, qui défendait une position, on va dire, manzonienne. Léonard aurait voulu, aurait effectué tout le travail préparatoire pour un dictionnaire, pour un premier dictionnaire de la langue vivante florentine. On a eu d'autres thèses qui ont suivi celle-ci, plus loufoques pour certaines, je passe. En tout cas, Solmi, lui, le premier du monde de Solmi, qui contrairement à Govi et Morandi était vraiment un vrai léonardien hein, toute sa vie, a le premier défendu qu'il s'agirait plutôt d'un exercice à usage personnel. Et ce dont Solmi a fait l'hypothèse mais sans réellement la démontrer, Marinoni l'a pleinement démontré. Et il se trouve que c'est bien la découverte de Ramusio comme source privilégiée des listes de mots du Trivulziano qui a permis de comprendre la logique profonde de ces listes, la façon dont elles étaient constituées, leur objectif, la méthode présidant à leur constitution. Depuis Marinoni, les chercheurs ont accueilli unanimement ces conclusions. Ces listes ont servi à Léonard pour qu'il puisse nourrir son lexique, l'enrichir, accueillir les outils d'une langue vulgaire soutenue et savante, à une époque où les normes permettant de l'instituer n'existaient pas encore. Ce qu'on retient moins, en revanche, c'est le cœur de l'argumentation de Marinoni, et c'est ça qui m'intéresse ici. La mise en relation détaillée de ces listes avec le texte de Ramusio lui a permis de mettre au jour une méthode précise suivie par Léonard, une méthode qui est celle de la dérivation. Alors, de quoi s'agit-il ? À l'origine, la dérivation est une méthode scolastique développée dans le cadre des enseignements de la grammaire au sein du trivium, la disciplina derivationis. Elle consistait à rapprocher les vocables selon leurs affinités d'origine afin d'en saisir rapidement la signification. C'était le meilleur moyen pour suppléer à l'absence de dictionnaire, pour mémoriser de longues listes de mots. Et c'est sur cette base que s'était développée la lexicographie du bas Moyen-Âge, en latin bien sûr. Plus précisément, il s'agissait, selon les préceptes de Priscien, de rapporter chaque mot à son espèce primitive, c'est-à-dire à son radical, à son primitif, et de donner ses dérivés divers et ses composés. Une autre des sources majeures de l'apprentissage linguistique de Léonard, le manuel de latin pour débutants qui était les Rudimenta Grammaticis de Niccolò Perotti, recommandait encore cette méthode qui permettait non seulement d'élargir ses connaissances lexicales, mais aussi de comprendre et acquérir la morphologie grammaticale. Donc, sous cette forme, il s'agit encore et uniquement d'un travail en latin sur le latin. Toutefois, s'est développée au cours du XVe siècle une autre pratique de la dérivation, en quelque sorte au deuxième degré, touchant cette fois des mots de la langue vulgaire issus du latin. L'idée qui se développe dans les milieux humanistes et qui est notamment promue par Landino, qui est un autre auteur cher à Léonard, hein, comme on le sait, du fait même que c'est un des plus grands vulgarisateurs de l'humaniste, un humaniste vulgarisateur, La méthode donc promue par Landine pour légitimer l'usage littéraire de la langue vulgaire, un usage légitime à partir du moment où il se fait sur la base d'une très bonne connaissance du latin. Et je cite donc son oration célèbre, inaugurale à ses cours sur Pétrarque. « Ognuno si vede che, volendo arricchire questa lingua, bisogna ogni dì dei latini vocaboli, non sforzando la natura, derivare e condurre nel nostro idioma. » Cela suppose cependant d'avoir une très bonne connaissance du latin. Hein. È necessario essere latino, chi vuole essere buon toscano. On a là une des raisons pour lesquelles Léonard va tout à la fois se mettre à apprendre le latin et pratiquer l'exercice de la dérivation sur des mots de la langue vulgaire au même moment, dans les mêmes manuscrits. Des mots, par ailleurs, qu'on appelle à cette époque, et qu'il appelle lui aussi, Léonard, à la suite de Pulci, notamment, hein, des vocaboli latini. Latini, non pas parce qu'ils seraient en latin, mais tout simplement parce qu'ils sont d'origine latine et que leur latinité transparaît encore dans leur dérivation vernaculaire. C'est d'ailleurs comme ça, vocaboli latini, que Pulci appelle son propre dictionnaire, vocabolista, dont Léonard retranscrit, là aussi, toujours dans le Trivulziano, 300 mots suivis de leur définition ou de leur synonyme. Et c'est bien ces vocables latins qui constituent les milliers d'autres mots qui apparaissent dans le Trivulziano. Si un grand nombre d'entre eux sont directement issus de Ramusio, c'est justement parce que la traduction, le volgarizzamento de Ramusio, comme beaucoup de volgarizzamenti de l'époque d'ailleurs, était en réalité une langue vernaculaire très très fortement latinisée, hein, dont la lecture est particulièrement difficile. Souvent, Ramusio se contente de calques, donnant des désinences vernaculaires à des mots restant placés dans l'ordre que leur avait attribué la syntaxe latine de Valturio. Quoi qu'il en soit, une fois qu'il avait mis en parallèle les listes de Léonard et les pages du texte de Ramusio dans lesquelles il avait puisé, Marinoni n'avait pas eu de mal à mettre en évidence les deux aspects du travail de Léonard. D'une part, le choix des mots latins, hein, des vocaboli latini, c'est-à-dire ces mots difficiles, le choix de ces mots donc à transcrire, et d'autre part, la recherche mentale de leurs dérivés. Ce faisant, Léonard montre qu'il s'approprie très librement le procédé de la dérivation, et c'est cette liberté-là qui m'intéresse tout particulièrement. Ce procédé, tel qu'utilisé par Léonard, n'est qu'en partie grammatical. Il est aussi bien sémantique quand il donne en particulier des synonymes, des termes analogues, etc. Parmi bien d'autres exemples que l'on pourrait donner au hasard, en voici deux très différents. Il lit par exemple « prezzo », pour le prix, « prezzo » dans Ramusio. Il le retranscrit d'abord, mais sous la forme « prezzo », puis il leur associe « prezioso », dérivation typique, et « premio », qu'il a déjà nettement moins. Mais lorsqu'il lit sur la feuille suivante « virgine », il donne d'abord au terme son dérivé « virginita », qu'il fait suivre immédiatement par « castita », puis « pulicizia ». Ou encore, lorsqu'il lit « comedie », écrit « comoedie », hein, il retranscrit « comedie » avec un « e » et pas le « oe », qu'il fait suivre par « tragedia »,« faceto », »,« satira », etc. Donc il s'agit bien d'un travail d'autodidacte qui s'inspire de la méthode d'abord scolastique puis humaniste de la dérivation, tout en ne se souciant aucunement de distinguer les dérivés des synonymes, des antonymes, des paronymes, et qui, par l'association d'idées et le travail de la mémoire, vise à enrichir le plus possible son vocabulaire. À cet exercice, il nous faut nécessairement confronter cette affirmation célèbre de Léonard, beaucoup plus tardive. Io ho tanti vocaboli nella mia lingua materna, ch'io m'ho piuttosto da doler del bene intendere le cose che del mancamento delle parole con le quali io possa bene esprimere il concetto della mente mia. Alors c'est sans doute vrai qu'il en a énormément hein, dans son esprit et dans sa langue. Mais il faut reconnaître que cette richesse de mots dans sa langue maternelle n'est pas tant la revendication d'une copia qui serait intrinsèque au florentin que le résultat d'une acquisition et d'un travail tout personnel sur la langue, sur sa langue, tout à la fois libre et rigoureux. Ce qu'il faut notamment retenir et qui définit en propre l'attitude de Léonard, c'est que contrairement au mythe qu'il a en partie auto-entretenu, bien sûr, hein, du disciple de la seule et unique expérience qui rejetterait systématiquement l'autorité des livres, Léonard n'a cessé de se former sur les livres et s'est même inspiré des méthodes savantes, qu'elles soient d'origine scolastique ou humaniste. Mais il l'a toujours fait avec une liberté qui est proprement unique dans le monde des lettres à cette époque. Cela n'empêche pas qu'il ait une idée précise de ce qu'est la dérivation. Non seulement il la met en pratique à sa manière, bien à lui, mais cette dérivation l'aide à penser sa propre pratique dans d'autres domaines. C'est ce que montre une affirmation qu'on trouve sur une autre feuille d'anatomie de la collection de Windsor, qui présente une série de schémas, de dessins, décrivant le système nerveux qui relie par la nuque le cerveau à l'épine dorsale et au plexus brachial. Il s'agit de la question de la transmission des informations entre le cerveau et les membres supérieurs par le moyen des nerfs. Et on y trouve cette affirmation. Questa dimostrazione è tanto necessaria ai buoni disegnatori quanto agli buoni grammatici la derivazione dei vocaboli latini. Perché male farà i muscoli delle figure negli movimenti e azioni di tal figure chi non sa quali siano i muscoli che sono causa degli loro movimenti. Alors c'est un passage qui étrangement est très rarement cité et commenté. On comprend bien son sens général dès lors qu'on le rapproche d'un autre bien plus connu du manuscrit A, qui est repris par ailleurs dans le Libro di Pittura, hein, et qui est intitulé « Come al dipintore è necessario sapere la intrinseca forma dell'uomo ». Le sens du mot « dérivation » ici employé est par ailleurs celui-là même que Landino lui donnait. En revanche, il est probable que les buoni grammatici dont parle Léonard ne soient pas tant les théoriciens et les professeurs de latin que ceux qui écrivent avec des vocaboli latini, que ceux qui savent bien écrire avec des vocaboli latini, et qui usent d'un vulgaire réglé par les normes du latin, soit selon une définition un peu plus tardive donnée par Liburnian, ceux qui, par, je cite, hein, par voie de science, c'est sa définition qui donne des grammatici, ceux qui par voie de science peuvent et parler et écrire diligemment et finement. D'où le fait que l'on peut pousser plus loin encore l'interprétation de ce passage et y voir une certaine déclinaison, certes particulière, de Lut Pictura Poesis. Particulière, non pas parce que le rapport entre les deux termes serait ici renversé, hein, le pictural est comparé au littéraire et non pas le littéraire au pictural. C'est là un des grands lieux communs de la pensée esthétique à la Renaissance et la chose est bien connue. La particularité de cette affirmation ne tient pas seulement non plus au fait que c'est la bonne connaissance et pratique de la langue qui est ici première plutôt que la poésie. Ce que cette affirmation a de particulier tient surtout au fait qu'il ne s'agit pas, au sens strict, d'une comparaison entre la peinture et la grammaire, entre la peinture et la bonne langue, mais d'une analogie, c'est-à-dire d'un rapport proportionnel. La dimostrazione anatomique est aux arts du dessin ce que la derivazione est à la grammaire. Autrement dit, Léonard ne pense pas seulement banalement que la connaissance de l'anatomie est importante pour le peintre, mais que sa propre pratique de la représentation anatomique, une pratique dont on sait à quel point elle est novatrice, entend justement qu'elle est dimostrazione et qu'elle diffère très nettement de ce que présentait aussi bien les traités d'anatomie traditionnelle que ceux que Léonard appelait lui-même les pittori notomisti. Et donc sa propre pratique de la représentation anatomique a une fonction analogue à celle de la pratique de la dérivation dans l'écriture, la bonne écriture, en particulier en langue vulgaire. Ce qui est en jeu ici, c'est la fonctionnalité didactique du dessin anatomique. Une approche fonctionnelle du même type d'ailleurs que celle qu'il développe dans les mêmes années dans ses dessins d'architecture. Est-ce que Ludwig Heinderreich avait justement nommé démonstration graphique. Il faut souligner qu'au sein du corpus des dessins anatomiques, démonstration est un terme absolument central et omniprésent, qui, loin de signifier simplement la représentation ou le dessin en général, désigne donc une véritable technique de représentation anatomique spécifique, inventée par Léonard, caractérisée par un certain nombre de principes, en particulier le fait d'isoler les organes, les nerfs, les tendons qu'il faut mettre en évidence, et le fait de les présenter en coupe, coupe frontale, coupe sagittale, ou éventuellement en perspective. Pour rendre compte de cette pratique et donc pour la justifier, Léonard éprouve ainsi le besoin d'évoquer la fonction de la dérivation dans l'apprentissage et la pratique savante du langage. Serait-il justifié d'aller jusqu'à dire que cette dérivation, si décisive donc pour son travail, son propre travail langagier de Nouvelle Uomo di Lettere, était aussi un modèle qui aurait contribué à la mise en place des principes de son dessin anatomique? Ce serait sans doute, certainement, aller beaucoup trop loin. En revanche, une chose est sûre, Léonard instaure clairement une analogie entre la dérivation et la dérivation lexicale et le dessin. Et cette analogie, il l'a fait, selon toute vraisemblance, à une période très proche de sa propre pratique de la dérivation dans le Trivulzianum, même si je ne reviens pas sur les questions de datation de ces feuilles, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Alors cette analogie peut nous autoriser, je crois, à étendre la dérivation dans un sens plus large, plus libre encore, et à l'étendre non plus seulement aux vocaboli latini sur lesquels s'exerçait Léonard, mais à l'ensemble des sources autorisées qu'il s'appropriait et dont il faisait usage. Et je pense non seulement aux textes, plutôt aux extraits de textes dont pouvaient dériver certains de ceux qu'il composait, mais aussi à des sources visuelles, à des dessins ou à des gravures. Dans quelle mesure l'usage que Léonard fait de ces sources peut-il être compris sur le modèle de sa propre pratique de la dérivation? C'est une hypothèse que je voulais tester, que j'aimerais tester, en m'en tenant simplement au Valturio de Ramusio, Valturio Ramusio, qui est aussi pour lui une voie d'accès privilégiée à la représentation savante des arts et des techniques militaires de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Alors, je n'ai pour l'instant que introduit mon hypothèse. Il me reste 2 minutes. Il me reste 2 minutes, donc ça va être très très difficile. Alors, on va pas lire les textes. Je vais juste les commenter très rapidement et vous allez pouvoir juste en prendre les références. En termes de citation d'auctoritates, les emprunts que dans les manuscrits B et Trivulziano, Léonard fait à Valturio Ramusio, sont nombreux, ont été très bien identifiés, et on en trouve un certain nombre, d'ailleurs, dans la section Transcriptioni de l'édition Vecce au programme, je dis ça pour les étudiants agrégatifs en particulier. On a Lucrèce, notamment, Virgile, Cels, ou encore le Démétrius de la 91e lettre à Lucilius de Sénèque, qui est cité. Alors, si on s'arrête sur ces deux dernières, voilà, on a ces textes en parallèle, qu'il faudrait que nous lisions tranquillement. C'est une bonne lecture lente, mais bon, voilà. Tout sera donné dans le texte qui arrivera bientôt. Voilà. Mais dans les deux cas, on voit bien qu'il s'agit de transcriptions. Certes, ce sont des transcriptions, mais elles sont relativement libres. Elles adaptent, voire corrigent la langue de Ramusio. Elles sont peut-être d'ailleurs le fruit d'une écriture en ayant les deux, à la fois de la transcription et de la traduction. C'est pas impossible, parce que une autre chose est sûre, c'est que Léonard avait accès aux textes, aux deux éditions contemporaines de 83 hein, de Valturio dans les deux langues. Mais ce qui intéresse plus particulièrement est le fait que il ne s'arrête pas à cette retranscription. Voilà, ça me dit que mon temps est écoulé. Alors je vais essayer en 3 minutes. Bon, je vous donne juste les références des textes, hein, les références des textes qui permettent et qui sont des textes extrêmement connus, dans lesquels on voit comment il compose ces textes qui sont ces sources déjà retranscrites, et il en refait quelque chose d'autre, hein, et ça c'est un des célèbres proémi que vous avez aussi dans toutes les éditions. Là, il s'agit d'extraits du Proemio de Valturio dans la version Ramusio, à partir duquel il est aisé de se rendre compte que la rhétorique extrêmement polémique, parfois presque violente, agressive de Léonard provient directement de celle de Valturio. Et ce qui est tout à fait passionnant, c'est que dit Ramusio dans son Proemio. Que dit Valturio, traduit par Ramusio. Il dit, je sais bien qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont m'accuser de ne rien savoir, d'être un ignorant, parce que je ne suis pas un homme de la pratique, je ne suis pas un ingénieur, je ne fais pas des machines, je ne fais pas des armes, je ne suis pas moi-même un militaire, etc. etc. Hein, mais vous vous trompez parce que telle et telle et telle raison, et les raisons, ce sont aussi des allégations de textes que justement Léonard allègue à son tour dans ses poèmes pour renverser spéculairement parfaitement le discours. On dit, je sais bien que vous considérez que je ne suis pas un homme de lettres, mais moi, je suis un homme d'expérience, et vous allez voir, et vous allez voir, et vous allez voir. Hein ? Donc on a là la démonstration de cet usage-là, de cette forme de dérivation antonymique, si vous voulez, qui fait que le texte est repris et qu'il y a un véritable usage, hein, très intensif de cette source. Pareil pour des questions beaucoup plus visuelles. Alors là, on a les triboli, hein, donc les chausse-trappes présentées par Valturio, que Léonard reprend telles quelles, d'abord, hein, vous voyez à droite, et améliore, développe, en faisant par exemple un tribolo, donc une chausse-trappe doppio. Hein. Et puis, à partir duquel, il construit tout un discours qui s'inspire très directement du discours de Valturio, mais qu'il brode et auquel il apporte énormément de choses nouvelles. Et puis, en dessous, vous avez des semelles et des fers pour les chevaux, hein, qui permettent de ne pas subir les effets néfastes de ces chausse-trappes. Pareil, quelques armes. Armes anciennes, armes à feu au sens armes incendiaires, hein, pour les batailles navales que vous trouvez dans Valturio, que Léonard va actualiser, va reprendre, va développer, tout en les faisant devenir des armes à feu. Alors là, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un boulet qu'il faut lancer, et dans ce boulet, en fait, il y a plein de petits canons qui, une fois qu'il tombe, qu'il explose, fait exploser tous les canons dans tous les sens, etc. Voilà. Alors, pour conclure, rien. Les conclusions, ce sera parce que là, j'ai déjà dépassé de plusieurs minutes. Je reviendrai éventuellement sur les conclusions plus tard si vous avez des questions par rapport à ça. Excusez-moi d'avoir. D'avoir écourté à ce point ton intervention. Alors c'est vrai que la journée est entièrement enregistrée, mais la seule condition, c'est qu'il faut que l'on on parle avec le micro. Hein. Donc, j'ose espérer que dans la discussion, on va pouvoir rattraper ce qui a été un peu brutal. Et on va en profiter maintenant pour écouter Anna, que je n'ai pas encore vue. Et que Olivier va présenter. Bien, nous laissons à présent. Je vous en prie, si vous pouvez mettre la clé. Nous accueillons à présent Anna Skontz, qui est maître de conférence à Paris 3, et qui, de ce fait, est également préparatrice de la question d'agrégation en collaboration avec Monsieur Residori. Anna Skontz est une spécialiste de Léonard, à qui elle a consacré à la fois une thèse et de nombreux articles. Et plus généralement, elle travaille sur les liens entre littérature et art dans l'Italie des 15e, 16e et 17e siècles. Ringrazio innanzitutto gli organizzatori di questa bella giornata di studi, è una bellissima occasione di scambio quella che ci offrono e mi permetto di parlare in italiano nonostante avessi inizialmente proposto un titolo in francese che qui ho tradotto. Il mio intento di mettere a confronto la voce di Leonardo con l'augusta ombra del suo predecessore, Leon Battista Alberti, si deve limitare per oggi ad un raffronto sulla teoria della pittura. Questa prima inchiesta si iscrive tuttavia in un confronto più ampio che sarà prossimamente disponibile nel volume dedicato al tema Letteratura e arti visive nel Rinascimento, che è in corso di preparazione presso l'editore Carocci di Roma. Nel molteplice registro di indagine attestato dalla produzione scrittoria e artistica di Leonardo, la ricerca dotta e quanto mai ampia del grande umanista fu senz'altro una fonte di ispirazione maggiore per l'artista ingegnere di Vinci. Alberti, che l'aveva preceduto d'una sola generazione, restava per Leonardo un punto di riferimento in diversi campi del sapere, insomma un vero altore e di fatto quello che gli cita di più tra i contemporanei. Nel della pittura, Alberti era inoltre riuscito ad affermare la propria concezione nobilitante di quest'arte in maniera coerente ed erudita. Che questo testo abbia incontrato nell'immediato una scarsa fortuna a Firenze e circolasse solo in forma manoscritta non fu un limite. Di fatto Leonardo non ne possedette una copia, non lo cita infatti nelle sue liste di libri. Ciò nonostante, il suo debito nei confronti di numerose osservazioni esposte nella pittura è così evidente che quest'opera è oggi unanimemente riconosciuta come fonte leonardesca. Come sappiamo, Leonardo non venne a capo dell'intento di organizzare le proprie opinioni sulla pittura in forma di libro, di conseguenza lasciò in eredità, insieme ai suoi manoscritti, il progetto di pubblicare il libro di pittura all'allievo Francesco Melzi. Alberti, come in seguito Leonardo, intende stabilire i presupposti teorici del fare artistico, inteso come espressione dell'intelletto, prima ancora che della mano, il legame con le scienze matematiche e con la retorica, ponendo l'attenzione sulla composizio del dipinto, ovvero sull'architettura della composizione pittorica piuttosto che sul suo contenuto di segni. Leonardo riprende alcuni utili consigli dati all'artista nel della pittura, come quello di riposarsi ricreando l'animo tra una fatica e l'altra, o quello di valutare il giudizio altrui sulla propria opera. Divenne cruciale per Leonardo l'ammonimento relativo a diligenza e perfezione, ovvero sulla necessità di condurre a perfetto compimento l'opera pittorica intrapresa. La fase conclusiva, la frase conclusiva della pittura sembra di fatto un invito, tanto nobilitante quanto oneroso, raccolto volentieri dal suo successore. Scrive Alberti: chi noi seguirà, se forse sarà alcuno di studio ed ingegno più prestante che noi, costui, quanto mi stimo, farà la pittura assoluta e perfetta. Nonostante analogie di massima e affinità che andiamo ora ad evocare, occorre precisare fin da subito che il pensiero dei due autori non collima affatto riguardo al ruolo della pittura nell'agone del paragone delle arti. Tanta è la distanza polemica di Leonardo dagli auctores, quanta è l'intenzione di Alberti di creare un legame forte tra la pittura e la tradizione letteraria, a partire dalla rievocazione delle origini storiche e mitiche di quest'arte. Per l'umanista, l'aspirante artista deve procedere come se imparasse a scrivere, cominciando dalle lettere e proseguendo fino alle parole, ma non deve trascurare la compagnia di oratori e poeti da cui può trarre nuove invenzioni per comporre le sue storie. È questo un nodo importante del pensiero albertiano, da cui Leonardo si allontana con fermezza. La forza di una bella invenzione, sostiene Alberti, ha un valore in sé e risulta piacevole anche senza il supporto esplicativo della pittura. Ne deriva pertanto un rapporto di necessaria subordinazione della pittura alla poesia, rapporto che Leonardo invertirà in maniera del tutto originale, portando alle estreme conseguenze il presupposto da cui era partito Alberti. La distanza tra i due autori è evidentemente data dalla loro opposta formazione culturale e dalla differente finalità dei loro scritti. Alberti è teso a dare una nuova dignità teorica a un'arte considerata fino a quel momento meccanica, oltre che a creare una nuova classe di mecenati. Leonardo, al contrario, è innanzitutto un artista che difende con fermezza la sua disciplina e intende trasmettere le sue osservazioni sulla realtà, compiute utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione. Il nostro artista scrittore si rivolge idealmente ad un pubblico di apprendisti lettori da rendere edotti sull'importanza dell'attività che svolgono. Di fatto, il testo leonardesco interessa dapprima letterati e amatori d'arte nelle principali corti del nord Italia, Milano e Firenze. In seguito si diffonde in larga parte tra le botteghe d'artisti tra 5 e 600, come ha sottolineato Carlo Pedretti. Nella premessa all'attuale edizione di riferimento della pittura, Lucia Bertolini mette a confronto le intenzioni di Alberti e l'evoluzione della pittura del suo tempo. Mi sembra significativo riportare questa ipotesi. Il pittore che egli, Alberti, auspica è un pittore che assolve ad un'istanza conoscitiva, scientifica ed estetica, un pittore da creare, che solo la generazione successiva alla sua, quella di Piero e di Leonardo, saprà inverare. Un pittore ancora tanto ipotetico da entrare in un corpo a corpo con il pittore storico a cui Alberti indirizza il proprio testo. L'umanista promuove di fatto l'idea che l'arte pittorica si basi sulle nozioni scientifiche di matematica e geometria. Leonardo si allinea spontaneamente su tali presupposti ed estremizza il ragionamento, arrivando addirittura a parlare della pittura come scienza. Gli espedienti tecnici proposti dall'Alberti, come il velo o telaio, sono accolti dal giovane Da Vinci come strumenti per confrontarsi con la dimensione tecnico-scientifica della pittura, almeno nei suoi anni di formazione. Fin dall'incipit del primo libro, Alberti auspica che il pittore si serva della matematica, nell'applicazione meno astratta della geometria, per esporre la pittura, se vogliamo impiegare il verbo scelto dall'autore, a partire dai primi principi della natura, che sono appunto matematici. Tuttavia, la ricerca teorica non è di certo lo scopo ultimo dell'artista, perché vogliamo le cose essere poste da vedere, dice Alberti, e perché solo studia il pittore fingere quello che si vede. Tuttavia, alcuni prerequisiti matematici sono fondamentali, ragion per cui entrambi gli autori si soffermano sulla definizione di linea, punto e superficie, e specificano, ad esempio, che cosa si intende per diametro o ghirlanda del circolo, ovvero circonferenza, quali sono i diversi tipi di angolo, le sferiche a superfici, eccetera, eccetera. Sono questi termini che Leonardo riprende invariabilmente e su cui riflette con passione per tutta la vita. Per quanto Leonardo rilevi dunque la sfida lanciata da Alberti, il quale scriveva: che giova al pittore cotanto investigare? Non sono le astratte definizioni matematiche della pittura come intersegazione della piramide visiva a ritenere la sua attenzione, quanto quando scrive di pittura, quanto piuttosto l'applicazione pittorica di tale ricerca senza fine sulla realtà da lui osservata. L'osservazione è maestra in ogni caso. Pertanto per Leonardo non risulta affatto necessario ricorrere alla mitologia o all'aneddotica antica, come faceva Alberti, per definire la sottigliezza della linea pittorica o la conoscenza delle proporzioni anatomiche. Tuttavia si direbbe che Leonardo segua senza impicci il suo predecessore quando riporta esempi tratti dalla propria pratica pittorica. Doveva leggere con particolare interesse il passaggio del primo libro sui rudimenta della pittura, in cui Alberti si sofferma a definire le superfici che, pur restando invariate, pure possono parere alterate, quali pigliano variazione per mutazione del luogo e dei lumi. La geometria pittorica non può dunque permettere una rappresentazione esatta se non tenendo conto dell'adattamento della visione alle condizioni ambientali e luminose. Nei confronti di questo argomento, introdotto dalla lettura della pittura, Leonardo dimostra una sensibilità sempre più acuta con il passare degli anni e con il complessificarsi della propria visione della realtà. L'abilità illusoria del pittore permette infatti, secondo lui, una rappresentazione tanto più complessa e verosimile quanto più tiene conto dell'intersezione tra i corpi e l'atmosfera che li circonda e li avviluppa con la sua densità, anche se tale densità rischia di inficiare la visione stessa. Un esempio particolarmente calzante a questo proposito riguarda i riflessi colorati verdeggianti su un volto di donna che cammina su un prato assolato, esempio citato da Zuboff nel suo confronto magistrale tra Alberti e Da Vinci. In questo caso Leonardo parte dallo spunto albertiano e si sofferma a precisare alcuni dettagli a lui cari. Non si limita ad annotare i riflessi colorati sul volto della donna, ma anche quelli sulle pieghe delle vesti, che nella parte inferiore sembrano appunto tignersi per razzi riflessi nel colore del soprato. Animato da un desiderio di esaustività nel rendere l'infinita varietà dei fenomeni naturali, Leonardo prolunga il ragionamento albertiano e osserva che il busto della medesima figura, veduta dall'aria luminosa per i razzi del sole tessuti e penetrati in fra essa, perché l'aria in sé è azzurra, pare pendere in azzurro. Osservazioni come queste inducono Zuboff a concludere che la lettura della pittura da parte di Leonardo va intesa come un dialogo vivace con un interlocutore quasi reale che gli permette di esprimere une métamorphose et une évolution continue d'idées ou parfois un choc d'opinion. Curiosamente, un suggerimento evocato della pittura che avrebbe potuto interessare Leonardo non viene rilevato a mia conoscenza. Riguarda un'osservazione sulle ombre proiettate dai corpi solidi a seconda dell'intensità della fonte luminosa. Alberti osserva che Il lume delle stelle fa l'ombra pari al corpo, ma il fuoco le fa maggiori. Nei testi sul paragone delle arti, Leonardo elenca a più riprese la possibilità di misurare l'altezza e grandezza delle stelle, oltre che quella di rendere l'alone luminoso che le circonda a riprova della finezza della pittura rispetto alla scultura. L'idea che il fuoco ingrandisca le ombre è invece raccolta e sviluppata da Leonardo, che precisa il ragionamento come segue: e se la figura è illuminata dal fuoco, fa i lumi rosseggianti e potenti, e quanto più l'ombra si allontana dal corpo, tanto più si faccia ampia e magna. E se detta figura fosse illuminata parte dal fuoco, parte dall'aria, fa che il lume causato dall'aria sia più potente e quello del fuoco sia quasi rosso, a similitudine del fuoco. In questo caso non sono tanto le ombre proiettate dalla figura ad interessare Leonardo, quanto piuttosto la sfavillante riverberazione colorata che la fiamma proietta su quei corpi, in concomitanza alle altre fonti di luce. Un'aggiunta tutta leonardiana, dunque. La concezione della pittura di Alberti, esposta nel secondo libro, sembra a tratti poter conciliare i due autori. In ogni caso il dialogo si infittisce tra concezioni contigue e divergenze profonde. Innanzitutto l'elogio iperbolico della pittura, le cui opere sono universalmente adorate quasi come una nuova forma di culto, trova un eco sensibile nel pensiero di Leonardo. La leggenda ingenua tramandata da Quintiliano sull'origine mitica della pittura come circoscrizione dell'ombra al sole viene ripresa da Leonardo con una precisazione: l'ombra dell'uomo proiettata dal sole sui muri, sebbene ometta di citare le sue fonti. Dal punto di vista retorico, Leonardo deve essere quanto mai sensibile alla dimensione metaforica adottata da Alberti per definire in maniera evocativa la rappresentazione pittorica come una finestra aperta sul mondo. Tuttavia, il crinale fra i due autori si innalza a proposito del mito creato da Alberti a proposito di Narciso, trasformatosi in fiore, quale inventore della pittura. Tale suggestione non doveva convincere il nostro artista scrittore, per quanto la pittura sia anche secondo lui il fiore d'ogni arte. Innanzitutto perché egli mette in guardia gli artisti dalla tendenza naturale all'automimesi, ovvero a dipingere se stessi, come riportato a più riprese nel libro di pittura. Basterà citare un esempio: sommo difetto è dei pittori replicare gli medesimi moti e medesimi volti e maniere di panni in una medesima storia e fare la maggior parte dei volti che somigliano al loro maestro. Inoltre, dipingere non significa affatto abbracciare con arte la superficie del fonte in cui Narciso annegò, perché la scienza della pittura per Leonardo va ben oltre l'apparenza superficiale dei fenomeni. Potremmo dunque spingere più in là la conclusione di Lucia Bertolini, secondo la quale fu proprio l'uomo senza lettere ad applicare paradossalmente l'ambizioso progetto umanistico esposto nel della pittura, ovvero quello di introdurre il pittore a nozioni di matematica e geometria, proponendogli un nuovo e ampio insieme di letture. Leonardo andò oltre tale obiettivo perché volle verificare queste letture con la propria esperienza del gran libro della natura, senza perdere di vista l'applicazione pratica alla pittura. Soffermiamoci infine sui concetti di decorum e varietas, imposti dalla tradizione oratoria e tanto cari ad Alberti. Alberti che dedica una scarsa attenzione alla descrizione di scene tratte dal vero. Nel caso di Leonardo, decoro e varietà sono al contrario leggi dettate dall'osservazione che gli applica sistematicamente in termini figurativi. Si vede malissimo, quindi cambio subito, scusate. Ho messo alcuni esempi di cui non parlo specificatamente. Nel libro di pittura l'indicazione delle scene da raffigurare fa parte del bagaglio di informazioni da trasmettere al giovane apprendista. Ma l'artista rifiuta quasi in tronco di ricorrere all'aneddotica antica e alle storie classiche come spunto iconografico. Preferisce di gran lunga individuare posture o dettagli che gli sembrano più indicati ad esprimere il moto mentale, ovvero l'interiorità della figura. Eppure è interessante notare che proprio alcune brevi notazioni del discorso sulla pittura di Alberti si ritrovano ampliate negli scritti vinciani. Si tratta di un breve campionario in cui il giovane pittore viene sollecitato a osservare le diverse forme dei nasi, la composizione delle membra in relazione all'età, le posture, i movimenti del corpo che contraddistinguono un particolare stato d'animo come la malinconia, l'ira, la gioia o il turbamento. In questo caso l'esempio citato da Alberti è la navicella di Giotto. Anche l'artista Da Vinci rinvia a un'eventuale rappresentazione pittorica attraverso un repertorio di gesti utili a raffigurare, per esempio, i putti, le donne o le vecchie. In scarne, seppur vivide annotazioni, Leonardo coglie l'intensità di uno stato psicologico, la postura e l'atteggiamento umano osservati dal vero, ma è soprattutto la sua produzione grafica a registrare l'immensa varietà dell'umano osservata senza filtri idealizzanti, come si può constatare per esempio nella ricca produzione di teste grottesche. L'attenzione al corpo, al contrario, si basa per Alberti su uno studio dal vero, accuratamente selettivo, sull'esempio del mitico pittore Zeusi, che considerava quanto di più bello offra la natura. Da un lato i canoni proporzionali classici, dall'altro, la frequentazione di testi di retorica sono il filtro con cui Alberti guarda al mondo. Il nesso tra composizione retorica e figurativa è stato fin troppo enfatizzato nello studio della pittura, a riprova dell'erudizione classica dell'autore. Alberti rivela in effetti nel suo trattato una fine conoscenza di scrittori antichi, nonché una filiazione diretta dalla tradizione retorica, Cicerone, Quintiliano, evidente nella struttura stessa del suo argomentare sulla pittura. In quei trattati l'imitazione della realtà è evocata affinché l'oratore possa convincere il pubblico facendo leva sulle emozioni. Simili precetti sono infatti utili per la formazione del futuro retore, che deve saper accompagnare le proprie parole utilizzando con accortezza il giusto tono di voce e un certo numero di movimenti del corpo, del viso e delle mani, in modo da far apparire il suo discorso più naturale. L'osservazione della corrispondenza tra moti del corpo e moti dell'anima affonda dunque le proprie radici nella tradizione retorica e persiste nello studio di chi deve convincere della verità e della realtà di una scena raccontata attraverso il linguaggio delle immagini. Nel della pittura, la dignità dei gesti e i movimenti del corpo, che corrispondono ai equivalenti stati d'animo, dunque, è una linea guida per la composizione pittorica. Secondo Alberti, i gesti devono essere di preferenza soavi e grati, vengono scartati a priori quelli troppo ferventi e furiosi. Leonardo si discosta dalla fonte albertiana e fa piuttosto pensare all'istituzione oratoria di Quintiliano, quando attribuisce dell'importanza alle espressioni del viso e al linguaggio del corpo, nonché ai gesti dei muti studiati dagli attori. Occorrerebbe dunque sapere per quale tramite Leonardo sia venuto a conoscenza di quest'opera. Forse Valturio, nel volumetto Retorica Nova, probabilmente il fiore di retorica di Fra Guidotto da Bologna, che figura nella biblioteca personale di Leonardo fin dal periodo sforzesco, non vi sono riferimenti ai gesti dei muti, ma viene analizzata più classicamente l'impostazione della voce, dell'oratore, nonché i belli e piacevoli reggimenti del corpo e della cera del volto, che devono accompagnare con dignità un discorso scherzoso, di sfida, d'accusa oppure un lamento. Per concludere su questo confronto tra Alberti e Leonardo, abbiamo visto che l'artista scrittore riprende i presupposti teorici dell'umanista in difesa della pittura e ne amplifica, talvolta a dismisura, concetti critici quali il dar credito al giudizio altrui, l'applicarsi alla pittura con diligenza per raggiungere la perfezione. Nonostante la pittura sia per entrambi cosa mentale, il punto di vista dei due autori non collima sull'importanza attribuita a quest'arte nella gerarchia del paragone. Subordinando la pittura alla poesia, Alberti giustifica implicitamente il taglio letterario scelto per il suo trattato, avendo in mente di coltivare l'apprezzamento per l'arte pittorica nella classe di colti mecenati. L'uomo senza lettere è animato da una finalità differente e punta piuttosto ad instillare nei futuri pittori una nuova coscienza della portata culturale della loro arte. Ciò nonostante, i presupposti scientifici della pittura da cui parte Alberti appassionano Leonardo, che ne sviluppa in effetti spunti importanti, in particolare relativi alla visione e ai riflessi colorati. Anche la lezione di Alberti su decoro e varietà, abbiamo appena visto, viene estrapolata dalla tradizione retorica e riletta da Leonardo attraverso il prisma della realtà. Alberti è per Leonardo un grande autore contemporaneo con cui entra volentieri in dialogo per quanto sia lontano dal suo gusto per le fonti classiche ed erudite. L'idea di prendere a modello i muti, come suggeriva Quintiliano, è un esempio di ripresa dall'antico che riapre ampie zone d'ombra nell'intricata questione dell'uso delle fonti da parte di Leonardo. Vi ringrazio per l'attenzione. Bien, nous remercions Anna Sconza pour son intervention et j'appellerai à présent Laura De Fuccia. Je précise tout de suite que nous aurons un débat en fin de matinée, a priori, et en tout cas, de toute façon, en fin de journée. Laura De Fuccia est docteure en histoire de l'art. Elle travaille actuellement à l'INHA, Institut National d'Histoire de l'Art, où elle est actuellement chef de projet de recherche du programme intitulé « Les collections Rothschild dans les institutions françaises ». Elle est également l'auteur d'un ouvrage... Elle est également l'auteur d'un ouvrage intitulé « Venezia e Parigi ». 1600-1700, la pittura veneziana e la Francia, fortuna e dialoghi, publié chez Drose en 2016 et qui sera bientôt traduit en français et publié. Donc je laisse à Laura le temps d'installer la clé USB et je lui laisse le micro. C'était simplement pour rassurer le public parce que je vois qu'il y a quelques inquiétudes. Donc là, on n'a pas. pas changé de sexe, mais Olivier est ici, je rassure. Et je ne sais pas pourquoi, effectivement, sur notre programme, vous étiez censé parler. Donc, tout va bien. Je voulais vous rassurer là-dessus. Et donc, en profiter, on va dire, pour présenter Olivier, qui est mon doctorant et qui est en train de préparer, même terminer, une thèse sur le concept de laideur dans la littérature artistique. Et donc, peut-être vous pourriez vous asseoir à côté de Laura, puisque vous allez prendre la parole tous les deux. On a un petit peu de retard, mais ça reste très, très, très raisonnable. Donc, je remercie les organisateurs, donc Olivier Chiquet et Madame Dubas, pour cette invitation qui me permet de traiter donc un sujet auquel je suis particulièrement attachée, donc Léonard de Vinci, et vous présenter quelques réflexions au sujet des qualités visuelles de certains de ses écrits que j'ai centré un peu en considérant votre programme agrégatif et donc en prenant en compte notamment les fables qui sont au programme. Et j'ai donc un peu restreint le sujet par rapport à ce que j'avais mis comme titre original et je parlerai en italien mais assez lentement pour que ça puisse être compréhensible, pas autant qu'en français. Donc nella sua antologia degli scritti di Leonardo, curata da Carlo Vecce nel 1992, si trova un insieme di 52 favole contenute in gran parte nel codice atlantico, nella Rundel, nei codici Foster e nei manoscritti H e L dell'Institut de France. Sono scritti che datano, come lo sapete, penso ormai, tra il 1490 e il 1494 e risalgono quindi al periodo milanese di Leonardo. Sono quindi tra i testi più antichi di elaborazione letteraria, sono frammenti di scrittura che emergono sui margini di fogli e di manoscritti e che risentono dell'eredità del mondo popolare toscano, ma anche dei libri amati da Leonardo in giovinezza, come il volgarizzamento delle favole di Esopo e gli apologi di Leon Battista Alberti. Sono però anche gli scritti in cui Leonardo rinnova la tradizione del genere. E in questo corpus vorremmo soffermarci su alcune favole in cui l'autore conferisce alla scrittura dei particolari effetti visivi, rievocando soprattutto la rappresentazione di brani paesistici ed elementi naturali. Quindi ci allontaniamo un po' dalla trattazione delle figure umane che abbiamo visto finora. E intendevo instaurare qualche parallelo tra la sua pratica pittorica e la scrittura che può in qualche misura contribuire a chiarire qualche e dare qualche apporto forse alla comprensione della novità che l'autore apporta al genere della favola tramite questi aspetti visivi. E in effetti nella descrizione di alcuni brani paesistici la cui accuratezza si fonda, lo sappiamo, sull'osservazione scientifica della natura, che Leonardo sembra portare un contributo significativo alla favola tradizionale. E di queste visioni abbiamo un esempio importante nella favola 38, che non a caso è una delle favole un po' con lo sviluppo più importante. Presenta quindi uno sviluppo più complesso, articolato rispetto alla maggior parte delle altre, prima di concludersi con un ammonimento morale fondato su una riflessione sull'opposizione tra vita contemplativa e vita attiva, cioè tra otium e negotium, secondo la distinzione classica. sapendo come penso che l'abbiate già scoperto lavorando su Leonardo, che non si tratta mai di morali definitive universali che sono proposte qui, ma di morali legate allo specifico di questa favola. Leonardo sceglie quindi come protagonista, per illustrare questa opposizione tra otium e negotium, una pietra, e fa eco in questo ai suoi studi scientifici sugli elementi naturali. L'incipit della favola offre una sorta di veduta dove prevale il carattere descrittivo della narrazione, che si traduce con l'impiego di una paratassi e un ritmo lento che, accumulando i dettagli e precisioni, tende a descrivere con grande cura la protagonista della favola, una pietra, e il suo ambiente circostante. Vi leggo solo l'inizio, quindi. Una pietra nuovamente per l'acqua scoperta, di bella grandezza, si stava sopra un certo loco rilevata, dove terminava un dilettevole boschetto sopra una sassosa strada, in compagnia d'erbette di vari fiori di diversi colori ornata, e vedeva la gran somma delle pietre che nella sottoposta strada collocate erano. Quasi ogni sostantivo citato in questa favola è accompagnato da un aggettivo e accento a questo effetto di descrittivo. Apprendiamo quindi dell'esistenza di una pietra che era nuovamente coperta dall'acqua. Questo è un elemento importante su cui ritorneremo. Nelle proposizioni seguenti si dice che la pietra era di grande bellezza, era in posizione sopraelevata, quindi ci sono tre elementi che la descrivono: il fatto che fosse coperta nuovamente dall'acqua, il fatto che questo la caratterizzasse come una pietra di grande bellezza, e il fatto che si trovasse in posizione sopraelevata. C'è quindi una triade di elementi che trova corrispondenza nella scelta di impiegare tre altri elementi nelle proposizioni seguenti per descrivere l'ambiente circostante, che è indicato come un dilettevole boschetto che si trova sopra una sassosa strada. I verbi principali impiegati in questa favola sono quindi, in questa parte, utilizzati all'imperfetto: si stava, vedea, e conferiscono un'impressione di calma e di stabilità. Sono legati prevalentemente, non a caso, al campo semantico della visione. Leonardo impiega un tempo verbale all'imperfetto che accentua l'idea di una continuità, producendo una sensazione di immobilità, e questo primo movimento della favola presenta quindi una forte connotazione pittorica che introduce gli elementi del racconto, come se si trattasse di un disegno che si precisa progressivamente alla vista del lettore, che è anche un osservatore in qualche modo. La scelta della pietra come protagonista è significativa e non si ritrova nella tradizione. In Esopo, per esempio, è un'innovazione che riflette l'interesse di Leonardo per la natura e corrisponde a una predilezione precisa per il carattere minerale e acquatico del paesaggio. A questo elemento Leonardo ha dedicato numerosi studi, soprattutto associando proprio la pietra al movimento dell'acqua. Questi elementi si ritrovano nella maggior parte dei suoi dipinti, in cui si vedono spazi aperti sulla natura, dall'Annunciazione degli Uffizi fino alla Sant'Anna del Louvre, che sapete è un'opera non compiuta. Ma ci sono anche una serie di studi che rappresentano elementi rocciosi e movimento delle acque. Vi mostro solo qualche esempio. Dunque, per l'idea già delle erbette che vengono descritte in modo minuto all'inizio di questa favola, c'è probabilmente un legame comunque con la produzione di Leonardo già degli anni 70, come in questo dettaglio di paesaggio degli Uffizi, su cui ritorneremo, un dettaglio quindi dell'Annunciazione. E per gli elementi rocciosi vi rimando alla Sant'Anna del Louvre, che è stata sottoposta a un lungo restauro di una decina d'anni, che ha portato all'edizione di un catalogo molto approfondito sulla maniera di procedere di Leonardo nella pittura del paesaggio in modo particolare, ma anche delle figure. Ma per quanto riguarda noi, forse quello che è più interessante notare è che le parti che restano incomplete, quindi ancora soggette all'elaborazione alla morte dell'artista che lavora su quest'opera per almeno 17 anni, sono proprio quelle relative al paesaggio, il paesaggio che è roccioso, in primo piano, dove comunque in alcune fasi transitorie che poi saranno coperte, Leonardo affronta proprio il tema dell'acqua che scorre in superficie, e nella parte centrale dell'opera, che è pure non finita, nel senso leonardesco, nel senso che continuava a lavorarci ancora poco prima di morire, e su questa parte probabilmente avrebbe potuto continuare a lavorare. Quindi sono temi che ritroviamo negli anni milanesi e su cui riflette a livello della trascrizione letteraria, ma su cui continua invece anche a riflettere da un punto di vista della composizione e della resa dei riflessi, dei colori, da un punto di vista pittorico. E troviamo quindi degli schizzi poi che sono in questi legati a delle ricerche più scientifiche, più propriamente scientifiche, come questi studi sul movimento delle acque, che sono nel quaderno I2 conservato alla biblioteca dell'Istituto di Francia a Parigi, in cui vedete proprio uno studio, in questo caso di un movimento molto più tortuoso e complesso dell'acqua. Non stupisce quindi che sia in favole come queste, come quella 38 che ho appena citato, che la componente descrittiva associata al paesaggio non stupisce che sia in favole come queste, dove la componente descrittiva è associata al paesaggio, dove è più importante che Leonardo scriva quindi favole che elaborano in maniera più originale, cioè che l'originalità in realtà delle favole e le favole che sono più originali siano quelle dove in effetti la componente paesaggistica non è secondaria. E un altro esempio significativo a questo soggetto è l'inizio perlomeno della favola della neve, che per articolazione e costruzione presenta delle affinità con la favola precedente. Anche in questo caso c'è un incipit che è molto fondato su un andamento piuttosto descrittivo, da cui poi prende origine la storia. Ora la protagonista è una piccola quantità di neve che si trova su un'alta montagna, la quale si getta giù dal monte per fare professione di umiltà e rotolando accresce sempre più la sua grandezza. L'epilogo di questa frase e di questa favola è dunque differente. In questo caso si vuole dare una lezione di umiltà, ma come nel caso della favola 38, Leonardo comincia da un incipit molto descrittivo che ricorda in maniera importante un'altra favola che si sviluppava su un'unica proposizione, che è la favola 49, dove Leonardo scriveva: la palla della neve, quanto più rotolando discese dalle montagne della neve, tanto più moltiplicò la sua magnitudine. Quindi quella che era una favola che si risolveva in una sola proposizione, qui prende un'ampiezza maggiore. Si ritrova lo stesso movimento iniziale di un elemento roccioso, cioè la sommità di un sasso che ricorda le montagne su cui Leonardo studiava scriveva in modo molto assiduo, però stavolta è la neve a essere protagonista. Anche in questo caso a ogni sostantivo si associano più aggettivi. Qua si parla di alquanta poca neve, estrema altezza di un'altissima montagna. E questa visione che apre il racconto si anima in un secondo movimento con la personificazione della picciola dramma di neve che, come per il timore di fondere, decide di lasciarsi cadere e nel farlo si trasforma rotolando. È possibile che nella scelta della neve ci sia anche qui un riferimento ad alcune delle riflessioni di Leonardo, che si era in modo particolare interessato alla rappresentazione dei corpi bianchi in pittura. È un problema centrale della rappresentazione pittorica, sapendo che spesso abbiamo a che fare con supporti chiari, e che si riteneva che di per sé un oggetto bianco non avesse un colore, come ci dice Leonardo, il problema per l'artista si pone di come rappresentare questi oggetti, e Leonardo risolve nel suo trattato la questione dicendo che i corpi bianchi, non avendo colore in sé, si deve fare riferimento ai riflessi dei colori degli oggetti situati intorno. Quindi da qui capiamo anche l'interesse di associare la neve a degli elementi rocciosi e di articolare la relazione che esiste anche a livello scrittorio tra la neve e il suo circondario, perché da questo circondario si può instaurare una visione più perfetta anche dell'elemento naturale descritto come bianco. Le due favole che abbiamo appena citato sono quindi accomunate dal fatto di essere introdotte da vedute di una certa ampiezza. L'idea stessa che più favole comincino con un movimento fortemente descrittivo ricorda l'insieme di disegni che l'artista può consacrare in fase di studio allo stesso motivo, denunciando una lunga maturazione di un'opera, come i cartoni di Londra per l'opera per la Sant'Anna del Louvre, e c'è quindi un affastellarsi di disegni su motivi simili che si declinano in composizioni diverse, come dei frammenti di scrittura letteraria che si trovano poi ai margini dei suoi fogli e sui manoscritti. Come nel caso della favola 15, a partire da questa visione descrittiva si ha che è una visione statica, si ha poi lo sviluppo della narrazione, quasi che la narrazione, quindi la storia, sembri scaturire dalla visione. E nel caso della favola 15 questo procedimento è esplicitato dall'artista e dallo scrittore, che ci parla di immaginazione, come vedete nella seconda linea, cioè questo procedimento di personificazione è un processo in realtà mentale che fa riferimento all'immaginazione. Quindi la storia in questo caso, come forse un po' naturale, ha origine da un movimento mentale che per Leonardo è associabile a qualcosa come l'inventio di origine classica, cioè l'invenzione che è immaginazione e che provoca la personificazione, e quindi l'invenzione che permette la creazione della storia. Non è quindi forse un caso se la struttura di queste favole 38 e 15 si fondino su un primo movimento descrittivo per un giovane Leonardo che si trova in un momento essenziale della sua vita in cui è in cerca di legittimità nel campo letterario, e da uomo senza lettere cerca la sua rivalsa con un procedimento che gli è familiare. Leonardo dichiara di essere discepolo della sola vera maestra, l'esperienza, a sua volta maestra degli antichi filosofi e scienziati, e queste descrizioni della natura sono in qualche modo la rappresentazione concreta di un ragionamento che procede progressivamente dall'osservazione. Come la narrazione procede però per parole accostate le une alle altre, con elementi che si giustappongono, con l'effetto quasi di accumulo, questo procedimento corrisponde in Leonardo anche a una pratica artistica che è fatta di sovrapposizioni consecutive, di sottili pellicole pittoriche, che pure, se si vuole, procedono con una certa lentezza. Vi dicevo che ha messo comunque 17 anni a dipingere, certo non in modo continuativo, ma comunque per lungo tempo ha lavorato sulla la Sant'Anna. Quindi questa pratica lenta precisa alla vista l'effetto voluto, anche se poi noi lo percepiamo in maniera sintetica come un tutto ensemble, come direbbe Roger de Pille. Pensiamo ad esempio allo studio di un paesaggio che data di qualche anno prima, al soggiorno fiorentino, al periodo fiorentino, in cui i tratti del paesaggio si precisano progressivamente alla vista con grande attenzione e minuzia. La stessa precisione si trova nella descrizione del prato in primo piano dell'Annunciazione che ho citato all'inizio, con un'attenzione ancora tutta quattrocentesca alla rappresentazione della natura. È una visione veramente che data di questi anni, cioè siamo negli anni 70, perlomeno nel contesto italiano, lo stesso Leonardo, lo sappiamo, sorpasserà questo modo di vedere la natura grazie a un costante studio e un tentativo di comprenderne le leggi. La favola 1 richiama più chiaramente questo elemento di riflessione sui fenomeni naturali da un punto di vista scientifico e prepara l'evoluzione nella rappresentazione pittorica della natura. Trovandosi l'acqua nel superbo mare, suo elemento le venne voglia di montare sopra l'aria e, confortata dal fuoco elemento, elevatosi in sottile vapore, quasi parea della sottigliezza dell'aria e, montato in alto, giunse in fra l'aria più sottile e fredda, dove fu abbandonata dal fuoco. Leggo solo fino qui, vi lascio il resto per il seguito. Per dimostrarvi che questa descrizione non è scevra di un'attitudine scientifica, e del resto i due aspetti non erano completamente dissociabili per Leonardo. Il sottile vapore, la sottigliezza dell'aria, l'aria sottile e fredda richiamano le sue riflessioni sul modo di rappresentare gli effetti di trasparenza, cui si allude con l'impiego di termini come sottigliezza. Quindi è una sottigliezza che è legata alla creazione del vapore, ma che pone anche un problema di rappresentazione pittorica maggiore, cioè il problema della trasparenza. Tutti questi temi che abbiamo citato, la trasparenza e quello che ho citato subito dopo, poco prima, quello dei corpi bianchi, sono temi maggiori per l'artista, perché sono anche quelli che permettono di riaffermare alcune prerogative della pittura rispetto alle altre arti. Pensiamo alla scultura, per la quale ovviamente la rappresentazione della trasparenza o di un corpo bianco poneva dei differenti problematiche, ma forse poteva anche essere un limite per uno scultore, e quindi per Leonardo era un modo di difendere la superiorità della pittura rispetto alla scultura, quello di difendere la sua capacità di rappresentare gli effetti trasparenti e gli effetti bianchi del bianco. Queste riflessioni comunque sul vapore, sulla trasparenza dell'acqua in movimento riemergono soprattutto in opere come La Vergine delle Rocce, dove ci sono questi effetti di acqua che si sovrappone alle rocce, e nella Sant'Anna dell'Urche, quindi mi permetto di recitare. Sappiamo che la sua gestazione comincia nel 1500 circa, e Leonardo situa questa scena, soggetto religioso, su uno sfondo di paesaggio con montagne in lontananza, dove in effetti si misura con l'interesse della resa di una prospettiva atmosferica, dove dominano questi vapori e riflessi azzurrini che colorano le rocce e che permettono di tradurre i suoi interessi per i fenomeni della genealogia, della meteorologia e gli effetti di trasparenza. E quindi un po' il procedimento che voi conoscete senz'altro, che è quello dello sfumato, che permette di rendere una raffinata modulazione delle espressioni umane, oltre che paesaggistiche, oltre che gli elementi del paesaggio, e conferisce quindi un effetto evanescente e poetico allo sfondo di questo paesaggio. Questo esempio potrebbe sembrare in contrasto con quanto detto finora, cioè col fatto che Leonardo tendesse quindi a una rappresentazione accurata, che si ritrova nella scrittura ma anche nei suoi dipinti. Per questo vi rimando ovviamente alle riflessioni di Italo Calvino, che nel capitolo delle sue Lezioni americane, dedicato proprio all'esattezza, parlava di un linguaggio che è tanto più poetico quanto più è vago e impreciso, e dimostrando come a partire dallo Zibaldone di Leopardi, per ottenere l'effetto di bellezza dell'indeterminato, si possa passare in realtà da un'attenzione estremamente precisa e meticolosa all'immagine, per arrivare poi